Drop it. Mi dici lasciami stare, con te ci sto bene ma oggi voglio respirare, senza catene che ho bisogno di volare, becco gli amici, cerco il contatto e vado a ballare fino all'alba in un locale. Uè, la Vale non ti devi preoccupare, la nostra libertà è fondamentale, penso di te una donna di cui potersi innamorare. Torno sui miei passi, torno in solitario, scivolo sui sassi del mio immaginario, che ho carenza di affetto e non reggo la tua assenza. La casa è uno strippo denso di ricordi della notte precedente, noi due metà senza bordi, il pensiero impassato dalla merda del passato e sale piano a gelosia, una doccia, un cambio e me ne scendo per la via. Di distrarmi non c'è verso, più ti penso e più son perso. I tuoi occhi, il tuo sorriso, non ne posso fare a meno. Quando stringo le tue mani c'è un impulso che non frena, energia che si trasmette fra due mondi paralleli che incrociandosi per caso scoprono di essere uguali. Mi riverso all'alto tasso e quasi non mi sembra vero, che corri chi ci scalpisce, sì, che tu mi ammazzo di pampero. Messaggio vocale nella notte senza stelle, qualcosa ti è successo, i brividi sulla pelle, ma ormai è troppo tardi, tu il cellulare è spento, l'angoscia mi divora e mi devasta in un momento, silenzio, il vuoto, finalmente poi ti sento, il giorno dopo ti raggiungo appena tu mi dai l'ok, tante coccole, birrette e musica da DJ. Dormiamo abbracciati con un caldo che si frigge, in un incastro perfetto che ci unisce e ci protegge. Al risveglio la mattina c'è una dea accanto a me, io mi sento fortunato, tu prepari il caffè. Poi pranziamo a casa mia, fuori piove e non vai via, la nostra alchimia ci coinvolge e prende all'alzo. La notte è lunga e magica e rimaniamo stretti al pezzo, al pezzo. Con la bamba mi stranisco, tu vomiti sambuca mentre giro un altro disco. Ci spacchiamo di risate e microsplit svarionate, balliamo persi nella luce dei nostri sguardi, finché l'alba non ci sorprende, è già tardi. Poi qualcosa va storto, qualcuno è assente, si rompe all'improvviso la simbiosi crescente. Ma il bene che ci vogliamo, i sentimenti genuini non ci faranno diventare mai estranei. Mai estranei, mai estranei, mai estranei, mai estranei, mai estranei, mai estranei, mai estranei, mai estranei.